Asilio, il braccio tosto di Figara volata, io ho che in vela. Ed io che sento un tutto. Restate. Che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente? Non ha dubbi di scusa, un innocente. Ma costui commovente. E li rammego quando voi qui giungeste, e mi chiede di impegnare la padrona in darcedli grazia. Il vostro arrivo in scompire la posse dell'oro in candocco si nascose. Ma io stesso m'assisi quando in camera entrai. Ed allora di dietro io mi celai. E quando io la mi posi. Allora io piani volsi e chi mi nascosi. Oh cielo, tu mi hai sentito quello che io ti dicea? Fici per non sentir. Oh, perfidia! Fermatevi, viancente! E voi restate qui, piccione serpente!